magico profumo delle sigarette, profondo nera e spiri di un bar, il tocco sordo di un orologio sulle sette, sprofondo dentro il tempo che vola. E sabato e i giocatori fumano, e gli occhi tuoi battenti socchiusi, le sentinelle della notte brillano lontano dal tuo povero cuore. Prigionieri i miei pensieri fuggono, le immagini li cercano, ma ancora notte. Frena questi giorni, la tua strada devo fare. Pensa quanti cieli da guardare. Il dissoluto abbattimento dei tuoi sogni, la vita è così, è questo che vuoi. Il tuo sorriso alla bottiglia si riconfonde, la vita è così, è questo che vuoi. Guardiamo i nostri mondi che camminano, nel buio qualche cosa si muove, e i venditori della morte girano, rapaci nel cielo delle scuole. Gli estintori della mente fiutano il magico profumo delle sigarette. Tu frena questi giorni, la tua strada devo fare. Tu pensa quanti cieli da guardare, ma lascia nel tuo destino, devi andare avanti bene e male, e non ti puoi fermare. Whoa, whoa.